Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Un mattone. Ma e i libri ce l'hai? I libri? Ah, ma ce l'ho tutti qua ce l'ho. E che ce fai con tutta sta roba? Ce lo so io. Siamo solo agli inizi, ancora presto, ma gli zaini dei nostri ragazzi tra poco si riempiranno e sarà difficile per molti di noi resistere alla tentazione di caricarceli sulle nostre spalle, perché sotto sotto quel peso piazzato lì su quelle piccole schiene non ci lascia tranquilli. Sbaglio? Ditemi la verità, avete un numero verde per farlo? 800 24 00 24. Oggi puntata dedicata alle schiene di ogni dimensione, taglia ed età, perché come nella vita anche per la schiena gli esami non finiscono mai. Buongiorno al professor Stefano Negrini, fisiatra, professore all'Università di Brescia, Fondazione Don Gnocchi di Rovato e direttore scientifico dell'ISICO. Buongiorno. Buongiorno. Professore, bentornato. Puntuale. Grazie. Come ogni anno, professor Negrini, torna il tormentone zainetti. I bambini si lamentano, i genitori si preoccupano, gli esperti rassicurano. Ma una cosa è certa, anche i bambini hanno mal di schiena. I dati dicono che a soffrire di lombalgia, che è quel dolore che si fa sentire nella parte bassa della schiena, siano 6 bambini su 10. Evidentemente, professor Negrini, c'è dell'altro. Ma che cosa sta succedendo alle schiene dei nostri bambini? Ma allora, alle schiene dei nostri bambini succede che anche loro sono bipedi umani come noi adulti, e che viene mal di schiena come succede anche agli adulti, solo che oggi ce ne rendiamo conto di più di una volta perché facciamo più attenzione ai nostri figli rispetto a quanto venisse una volta. I dati ci dicono che a 15-16 anni la prevalenza, quindi la quantità di persone che hanno mal di schiena, è uguale a quella della prevalenza in età adulta, quindi molto, molto frequente. E il problema zainetti in realtà è una cosa che può avere una sua importanza, ma molto di meno di quello che appare, mentre per esempio è ben più importante di quello che appare la postura ferma, prolungata a lungo, come succede normalmente a scuola. D'altra parte... Si muovono spesso, comunque, se qualche insegnante è all'ascolto può confermarcelo, proprio fermi, non stanno quasi mai, cambiano. Sono ligi alle vostre indicazioni, professor Negrini, che dite a loro come a noi, non mantenete la stessa posizione a lungo. Loro su questo girano, si lanciano, no, le palline, siamo stati a scuola tutti e sappiamo che bisognava legarci. Però vede, c'è un aspetto anche sociale e immaginario, una persona curva sui libri è una cosa bella perché è positiva, studia, però è curva, mentre invece una persona curva sotto il carico, sotto il peso dello zaino, è una cosa negativa, no? E quindi la percezione è molto di più rispetto allo zaino, che è un problema tanto quanto è un problema un banco incongruo, che invece è molto comune nelle nostre scuole, perché quel rapporto che dovrebbe esserci tra la postura seduta e il tavolino molto spesso non è rispecchiato tra il banco e la sedia, non è rispettato, e poi il ragazzo magari alto 1,80 nello stesso banco del compagno di classe, come può succedere alle medie, che è alto 1,40, e quindi uno è piegato in due e l'altro invece è a posto. I nostri figli tornano tra i banchi di scuola e noi torniamo alle nostre scrivanie. 800 24 00 24, per questo oggi è una puntata dedicata alle schiene di ogni dimensione e di ogni età. Se qualche cosa pesa sulla vostra schiena, naturalmente potete chiamare il nostro numero verde, ma soprattutto imparare dai consigli dei nostri esperti a mantenere la vostra schiena in salute. 349-238-6666. Se siete più comodi a digitare un messaggio, potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Zaini in spalla, quindi, ma come? In linea con noi abbiamo il piacere di avere Marta Taveraro. Buongiorno. Buongiorno, Marta Tavernaro. Tavernaro, fisioterapista del gruppo ISICO. Sì. Zaino in spalle, quindi, ma come? Sì, allora. Allora, io direi che, come diceva giustamente il dottor Negrini, lo zaino non deve essere sicuramente considerato come l'unico problema. Va comunque consigliato sicuramente l'indossamento e consigliati i genitori anche per aiutare i propri figli a comprare quello più corretto e insegnare come fare a indossarlo in modo che gravi sempre meno sulla schiena. Mm-hmm. Il primo consiglio lo possiamo per esempio dare già in negozio, dove in linea di massima le tipologie, posso immaginare tre tipologie: abbiamo la sacca, abbiamo il trolley e abbiamo lo zaino classico da portare sulle spalle. Ognuno di questi tre, l'utilizzo di ognuno di questi tre crea qualche problema, chi più chi meno. Andiamo magari a vederlo nello specifico rapidamente. La tracolla purtroppo dà un carico asimmetrico, ma alle ragazze piace molto, va molto di moda, è difficile alle medie, ai primi anni superiori, riuscire a non fargliela portare. Lei ha figli, vero? Prego? Lei ha figli o viene Io figli, non ho figlie, ma ho tante pazienti, per fortuna, femmine. Che quindi la moda comanda. La moda comanda, assolutamente, ed è anche difficile poi proporre qualcosa che vada lontano dalla moda, perché per quanto bene faccia, per quanto ergonomico possa essere i nostri consigli, non ci ascoltano. Certo. Per cui è giusto un pochino fare del nostro meglio e trovare un buon equilibrio fra quello che è la cosa mettibile, la cosa fattibile e quelle che sono le nostre proposte. La tracolla, come dico sempre alle mie ragazze, anche in ambulatorio la si può prendere, magari non si può adottare come unico zainetto perché diventerebbe improponibile, ci sono delle giornate in cui i ragazzi vanno a scuola con 10-12 kg di roba, però perché no quel giorno che insieme all'astuccio c'è poco più che il certo, che quindi il per carichi leggeri. Esatto, per carichi leggeri. Lo zaino che invece piace anche ai bambini delle elementari. Prego, scusi. Lo zaino, i bambini degli elementari. È sicuramente la cosa migliore. Vorrei un attimo però fermarmi sul trolley, che è una cosa che negli ultimi anni è stata adottata tantissimo. Ha però delle limitazioni, a mio avviso, a nostro avviso. Il trolley, quello che noi riconosciamo, tipo le valigie nostre che portiamo anche in aeroporto, scarica indubbiamente il peso dalle spalle dei ragazzi, però sono, dal punto di vista ergonomico, poi per essere trasportati sulle scale o su e giù dai marciapiedi diventano veramente molto scomodi, in quanto la struttura già di per sé è molto pesante, per cui aggrava il peso stesso del trolley a quello dei libri. E se i nostri ragazzi possono avere un percorso dalla scuola a casa molto lungo, molto liscio, tutto di marciapiede, allora ok, potrebbe anche essere un'idea. Altrimenti il trolley, poi, nel momento in cui lo dobbiamo portare su dalle scale della classe, nel momento in cui dobbiamo salire e scendere dall'autobus, diventa un carico asimmetrico molto importante e scomodo, perché è molto rigido. È vero che hanno inventato quelli con gli spallacci, però è improponibile metterlo, perché tutto lo schienale è irrigidito dallo scheletro stesso del trolley e diventa improponibile. Quindi lo zainetto. Quindi zainetto, tutto sommato, lo zainetto è ancora la soluzione migliore. Indossarlo bene. Benissimo, infatti indossarlo molto bene e comprare anche quello più adatto, non troppo morbido. Lo zainetto giusto dovrebbe avere lo schienale un po' imbottito ma non troppo rigido, degli spallacci comodi, ammorbiditi anche quelli, e se possibile un cinturino in pancia tipo quelli da montagna. Noi in montagna andiamo con dei pesi importanti senza avere grossi problemi di schiena. L'altro aspetto invece è come indossare lo zainetto, che diventa importante. Due parole, innanzitutto nello zainetto vanno inserite solamente le cose assolutamente necessarie. Se possibile mettere i carichi, quelli più pesanti, tipo i libri più pesanti, verso lo schienale, verso la schiena, mentre le cose più leggere, tipo l'astuccio, i quaderni, verso l'esterno. Lo zainetto non va lasciato completamente aperto a fisarmonica. Se gli spettatori sicuramente hanno presente le varie cerniere per rendere più o meno gonfio lo zainetto, va stretto il più possibile, proprio perché se il carico poi cade indietro, crea una leva sulla schiena, per cui più appiccicato è alla schiena, meglio è. Cheek to cheek. Le cinghie devono essere, gli spallacci devono essere sempre molto ben tesi, in modo che lo zainetto rimanga adeso alla schiena senza creare un vuoto fra lo schienale e la schiena, e non deve scendere sotto il sedere. Per cui ogni tanto, appena indossato lo zainetto, dobbiamo ricordare ai nostri ragazzi di tirare fortemente le cinghie in modo da essere ben appoggiato alla schiena. In questo modo addirittura possiamo immaginare che lo zainetto possa diventare addirittura un esercizio fisico se portato bene, perché comunque quel po' po' di fatica che si fa, naturalmente entro certi limiti, potrebbe addirittura diventare allenante, performante. Quindi guardiamo anche l'altro lato della medaglia. Esatto. 800240024, abbiamo Stefano che ci chiama da Lucca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ascolti, io volevo portare la mia esperienza. Sì. Io ho un bimbo che va all'elementare, è entrato quest'anno e fa la scuola senza zaino. Quindi non ha i problemi che derivano da portare lo zaino. Certo. Pesi, schiene che si curvano e tutto quanto, sentivo appunto. E lui va a scuola la mattina con una cartellina leggera leggera, un tela, ma peserà forse 200 grammi, una roba simile, quindi leggerissima proprio, se la mette a tracolla, e va dentro un quadernino per gli esercizi e la merenda, fine. Questo però, quindi, Stefano, il suo bambino, immagino che vada volentieri a scuola il primo anno, vero? Sì. Il problema spesso si presenta quando il peso dei libri aumenta, allora grava sulla schiena. Non sono problemoni, perché come hanno detto i nostri esperti, non è lo zaino che induce il mal di schiena, ma sono delle attenzioni che aiutano a preservare il benessere della schiena. Tanti auguri al suo bambino per il suo primo anno di scuola. Grazie. Grazie. E qua in studio con me abbiamo anche il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, che annuiva nell'ascoltare la nostra Marta Tavernaro con tutti i consigli che ha dato, ma noi ci occuperemo naturalmente anche di schiene grandi. Sì, annuivo e soprattutto mi è venuto in mente un inciso che credo possa essere molto utile ai nostri ascoltatori quando si parlava del rapporto tra moda, postura e problemi di schiena. Un po' il tema di oggi. Un problema che si è diffuso moltissimo negli ultimi anni e che nei nostri studi troviamo sempre più spesso è legato alla moda del pantalone portato basso in modo tale da evidenziare la mutanda. Questo pantalone largo portato basso obbliga ad una postura scorretta a livello lombare ed ha moltiplicato i problemi di lombalgia in età adolescenziale. Sembra incredibile, ma è un problema che ha una rilevanza obiettivamente clinica molto superiore anche a quella degli zainetti, e qui basterebbe la sensibilità dei genitori nel ridurre le giornate in cui i bambini o i ragazzi, gli adolescenti in questo caso, si vestono in questo modo, perché davvero è una classica correlazione tra moda, postura sbagliata e problematiche che poi ci trascineremo per tutta la vita. Mi sembrava un dettaglio interessante nello spirito della trasmissione. Insomma, la moda pesa anche sulla nostra schiena. Assolutamente sì. 800240024, aspettiamo le vostre chiamate. Intanto, professor Negrini, possiamo dire che più di cosa mettiamo sulla nostra schiena conta come la teniamo. E torno a parlare al plurale, perché questo è un problema che non ha età. Se i bambini tornano a sedersi sui banchi, tra i banchi di scuola, noi stiamo seduti ore e ore in macchina alla scrivania, e c'è chi vorrebbe sedersi ma deve stare in piedi, come mi sta facendo notare un ascoltatore che fa la guardia giurata e col giubbotto antiproiettile a fine giornata si fa sentire il mal di schiena. Mica solo le scrivanie, mi scrive Saverio da Monza, e ha ragione. Ma professor Negrini, lei ha accennato che tutti i problemi nascono perché noi siamo diventati bipedi. Ma sì, dunque, sono perfettamente d'accordo con l'ascoltatore, mica solo le scrivanie. Ci sono altri, per esempio le commesse che devono stare in piedi tutto il santo giorno, e anche lì è la postura prolungata, qualunque essa sia, che non piace alla nostra schiena. È la ripetitività dello sforzo. Il problema è che la nostra schiena è comunque nata per consentirci di affrontare le situazioni di tutti i giorni, che però sono diventate ripetitive solo nell'ultimo secolo, secolo e mezzo, con l'industrializzazione, per cui le persone che lavorano da sedute stanno sempre sedute, quelle che lavorano dai piedi stanno sempre in piedi, e non esiste quel giusto mezzo. Cioè, l'ideale sarebbe avere un'attività che ti consente di variare posizione spesso e volentieri. Quindi, così come per chi lavora in piedi è fondamentale sedersi ogni tanto e dare una pausa, la stessa cosa per chi lavora seduto: è fondamentale alzarsi in piedi e fare anche solo due passi. Per esempio, sicuramente hanno più mal di schiena le guardie della regina, che sono obbligate a stare ferme con tutte le loro cose addosso, e sudano come disperate d'estate e hanno un freddo cane d'inverno, perché sono obbligate completamente a star fermi in piedi, rispetto magari alla nostra amica guardia giurata, che può anche fare soltanto due passi, muoversi appena appena. Già questo dà un minimo di sollievo alla colonna vertebrale. Ovviamente poi ci sono i pesi, ci sono tutte queste altre cose che influiscono negativamente. Diciamo che la schiena è una struttura che sta patendo molto le nostre abitudini di vita e che però ha sollievo se noi adattiamo le nostre abitudini di vita. In questo senso io la paragono un pochettino al sovrappeso, che è un altro dei problemi della nostra vita quotidiana, anche qua legata alla nostra, diciamo, attitudine sociale. Certo. Allora il cambiare atteggiamento semplicemente facendo un po' di attività fisica regolare e gestendosi meglio nella quotidianità consente di abbattere un problema che comunque avremo sempre, perché comunque bipedi siamo. A proposito di attività fisica, dottor Confalonieri, lei quest'estate si è mosso parecchio e ha notato, gli amici che ci seguono su Facebook lo sanno, sulla nostra pagina Facebook, tutto il suo percorso. Come ha risposto alla sua schiena questa improvvisa nuova vita, diciamo così? La schiena sì, perché sono partito da una condizione di sedentarietà e di sovrappeso e quindi col desiderio di recuperare un po' di forma, sia estetica che fisica, ho abbinato una dieta abbastanza stretta, un'attività fisica quotidiana, ovviamente gradualmente crescente nel tempo e soprattutto basata sul cammino in montagna. Direi che la schiena ha risposto bene, ha risposto meglio anche rispetto alle gambe, quindi palo, ginocchio, polpaccio, che mi hanno dato invece un po' di problemi. Forse perché già stava un po' meglio del resto del corpo, proprio perché io ho avuto la fortuna di un'attività in cui si alternava molto lo stare in piedi, il camminare, lo stare seduti come attività lavorativa. E poi perché ho messo in pratica uno dei consigli che do più spesso anche a tutti i miei pazienti e sul quale vorrei sentire anche il parere del dottor Negrini, ma anche l'esperienza dei nostri ascoltatori, e cioè un lavoro quotidiano sugli addominali e sui glutei, inizialmente fatto anche solo in isometria, mi spiego, cioè con contrazioni che non prevedevano movimento, quindi contrazione del muscolo da fermo, da sdraiato, proprio per ridurre il carico a livello della parte lombare della schiena. Quindi integrare questa attività di movimento in montagna, quindi con sovraccarico della schiena, con questi esercizi di tipo preventivo, sicuramente è stato utile e questo è un consiglio che mi sento di dare. Una domanda vorrei fare anche ai nostri ascoltatori, cioè chi ha condiviso con me questa esperienza quest'estate, cioè ha iniziato a fare sport o lo ha fatto in modo più intenso, o chi lo fa già da tempo? Ecco, lo sport per la loro schiena è stato positivo o è stato negativo? Vediamo a fine trasmissione se sono superiori le esperienze dei nostri ascoltatori positive piuttosto che quelle negative, cioè lo sport vi ha fatto bene o vi ha fatto male? La dite? Sinos, non riesco a vederti la faccia, mettiti seduto. Non mi posso sedere, la schiena mi fa un male cane. Il colpo della strega? Non lo so che cos'è, ma fa tanto male. Capita all'improvvisa, a volte proprio la colpa può essere attribuita all'attività fisica che è fatta in modo non adeguato, non corretto, senza gradualità. 800 24 00 24, ci sono alcuni colleghi qua a Radio 24 che quando ci siamo incontrati mi ha detto: senti, mi devi mandare da qualcuno perché secondo giorno di vacanza mi sono subito bloccato. Allora, professor Negrini, a volte il dolore alla schiena ci mette KO, ma noi non vogliamo farci prendere dal panico. Una schiena che fa male non è una schiena ammalata necessariamente, spesso come il male è venuto il male passa. Sì, questo è vero. Diciamo che rispetto ai suoi colleghi, ma penso che sia un'esperienza molto comune, il cambio brusco di abitudini di vita, che vuol dire dalla sedentarietà completa andare in vacanza pensando di avere ancora 15 anni e quindi fare una bella partita calcetto sulla spiaggia con il proprio figlio, è l'ideale per farsi del male. D'altra parte fa più morti una partita a scapoli ammogliati, adesso morti in senso molto figurato, ovviamente, sì, certo, di tante altre cose. Cioè, il problema è essere preparati a fare l'attività fisica. Quindi uno non può pensare, questa era l'esperienza anche del dottor Confalonieri, lui se l'è cavata in maniera bene, molto graduale, ha incrementato l'attività in maniera graduale, questa però, la vera chiave. Però professor Negrini, molti messaggi al 349 238 6666 di ascoltatori appassionati, sportivi che hanno dovuto smettere di fare lo sport del cuore proprio perché la schiena si lamentava. Essere e benessere. C'ho un mal di schiena che non, oh no, mi fa dormire. Dottoressa Tavernaro, eccomi qua. Quando arriva il mal di schiena, molto spesso poi se ne va, ma come gestiamo questa fase acuta? Allora, la vita continua. La vita continua, lo sappiamo. Deve assolutamente continuare, non solo perché la vita continua, il male passa, ma soprattutto perché se noi riusciamo a rimanere vicini alle attività che facevamo, riusciamo a non perdere il lavoro, riusciamo a continuare comunque a farlo nonostante la difficoltà e il dolore passa prima, riusciamo a ripristinare tutto quanto molto prima, per cui la prima cosa che consigliamo è di non scoraggiarsi assolutamente, anche se il dolore alle volte è veramente forte e demoralizza tantissimo, anzi più siamo attivi e più questo ci demoralizza nel momento in cui ci blocchiamo, per cui sicuramente rassicurare i pazienti, le persone di rimanere attivi. La cosa che possiamo fare, come diceva prima il dottor Negrini, è di cambiare spesso la nostra posizione, adottare magari delle posizioni più antalgiche, cioè che ci fanno stare un po' meglio. Se dobbiamo stare seduti, cerchiamo una sedia che non sia troppo bassa, con uno schienale su cui noi possiamo appoggiarci e scaricare il nostro tratto lombare, e con dei braccioli in modo da poterci appoggiare meglio. Cambiare spesso posizione anche se da seduta, e alzarsi e fare anche solo due passi per andare a prenderci un bicchiere d'acqua, oppure, che ne so, siamo in una serie di uffici, invece di mandare la mail all'ufficio accanto gli portiamo la stampa in questo periodo, proprio per poter avere la scusa di fare muoverci. Usiamo il dolore. Usiamo il dolore, non cerchiamo di cancellarlo totalmente, che questo viene grazie ai farmaci, perché ci può guidare, ci può aiutare a capire quali sono le strade aperte, quelle che noi riusciamo comunque a compiere, quali sono i movimenti che ci sono permessi, e li sfruttiamo, li facciamo. Le posizioni, i movimenti che ci creano un forte dolore, ovvio che noi ascoltiamo il dolore e cerchiamo di limitarci, ma quelli che ci sono concessi, anche con i fastidi, li percorriamo in modo da tenere aperte le strade e incentivare ulteriormente il movimento, perché purtroppo il rimanere fermi, cosa che a memoria lo ricordiamo, mal di schiena, bene una settimana a letto, questo sarebbe veramente deleterio, perché solamente il movimento può ripristinare rapidamente quelli che sono il ripristino dei tessuti e riparare molto più in fretta, mentre la sedentarietà non porterebbe, facilita quella che è poi la cronicizzazione del mal di schiena. Le posizioni, per esempio, durante la giornata antalgiche potrebbero essere, per esempio, sdraiati sulla schiena supini con le gambe piegate al petto, oppure addirittura piegate e appoggiate a una sedia, questo per scaricare, come si dice, no? Per scaricare il tratto lombare. Quindi muovetevi, se in questo momento avete mal di schiena o lo sentite lì che inizia ad arrivare, voi non gli date retta, cercate di muovermi, naturalmente con giudizio, ma fate. Alfredo da Roma, l'abbiamo ripescato, buongiorno, c'è? Eccoci, eccola, buongiorno Alfredo, mi dica. Allora, volevo dire, Nicoletta, tanto buongiorno. Buongiorno. Se riuscivo a rubare, come faccio quasi tutte le mattine, dei consigli da voi. Grazie, proviamoci. Allora, diciamo, faccio una premessa, che io sono un autista di mezzi pubblici. Sì. E da 35 anni ormai guido mezzi pesanti. Diciamo che sono una decina di giorni che io guido tranquillamente, cammino tranquillamente, ma non dormo più la notte perché non riesco a girarmi, non riesco a stare sdraiato, mi fa male. Cioè lei ha mal di schiena la notte, questo è il suo problema, Alfredo. Professor Negrini. Ma allora, il problema è, viene subito appena si mette disteso o compare durante la notte, a metà della notte, o compare verso mattino? Diciamo che il momento dell'insorgenza aiuta nella diagnosi. Perché? È cruciale. Perché allora il mettersi a letto oppure verso mattino in qualche modo è collegato alle attività quotidiane e in qualche modo è collegato a irritazioni che possono avvenire durante il giorno. Invece il mal di schiena notturno che ti sveglia nel cuore della notte, questo è considerato un noi le chiamiamo red flags, un semaforo rosso, una cosa a cui prestare particolare attenzione, per cui è importante rivolgersi al proprio medico di famiglia, parlarne e eventualmente, se lui lo ritiene, fare una visita specialistica, però va approfondito. Quindi distinguere molto bene nell'andamento, perché il dolore che avviene al cambio di posizione, quindi da disteso, cioè da in piedi vado disteso nel giro di poi o subito, dopo un po' di tempo, poco tempo, mi viene mal di schiena, è collegato alla vita di tutti i giorni. Il mal di schiena al mattino pure, soprattutto se poi magari è domenica mattina e dormo di più, sì. Allora rimango a letto di più, mi viene mal di schiena, anche questo ha a che fare con le posture, con quindi, situazioni di tipo diverso. Nel cuore della notte no, nel cuore della notte attenzione e andiamo dal medico. Alessandra da Bergamo e poi Angela dalla provincia di Trento, le amiche di Essere Benessere. Alessandra, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a lei. Una serie di domande. Ho una figlia di 11 anni che frequenta la prima media, è molto alta, perché è alta quasi su 1,70 m, molto magra, aveva dei problemi di piede piatto e l'ortopedico mi aveva dato questo consiglio. A scuola doveva avere una sedia dove non appoggiava i piedi a terra e dove non portava la schiena appoggiata allo schienale, ma stava quasi bilanciata. Okay. Sembra una cosa che tormento, povera bambina. È un po' particolare, però non riesco a capire se mia figlia invece cioè è la posizione giusta o se è meglio che, appunto, io le consiglio sempre di stare con la schiena appoggiata allo schienale e piedi a terra. Questo è il primo. La seconda cosa è il discorso del camminare. Condivido il discorso della camminata. L'importante per la schiena, secondo me, sono le scarpe, fondamentali, sia per il camminare che per il correre, perché certo. Io mi accorgo che fanno davvero la differenza, Alessandra. Davvero la differenza. Abbiamo fatto delle puntate sulla scelta della scarpa anche per chi inizia a correre, che sono nell'archivio di Essere Benessere, per cui rimandiamo i nostri ascoltatori a cercare nel nostro archivio indicazioni e consigli. Dottor Confalonieri. Tre risposte, tre indicazioni molto sintetiche. La prima, probabilmente il consiglio è stato dato perché obbligava la ragazza in questo modo a fare una sorta di lavoro di sensibilità e continuare a tenere attivata la muscolatura posturale della schiena, proprio perché mancava questo bilanciamento legato all'appoggio dei piedi e all'appoggio sulla schiena. Direi che può andare bene, ma non si può pensare di passare 4 ore a scuola in questo modo, perché dopo ci sono altre controindicazioni. Sarebbe fondamentale trovare la giusta posizione di lavoro o di studio. Ecco, per esempio il nostro gruppo ha avviato questo tipo di sperimentazione partendo dall'esperienza fatta con i ciclisti, dallo studio della posizione in bicicletta, ideale per non sovraccaricare la schiena. Stiamo facendo la stessa cosa per individuare la corretta posizione alla scrivania in funzione dell'altezza della scrivania, dell'altezza regolabile della sedia e della propria postura, e questo credo che sia la strada da intraprendere in futuro. Terzo punto, velocissimo sempre, attenzione alle scarpe, e partiamo da un concetto di base. Abituiamoci a camminare con le scarpe allacciate, perché spesso scegliamo la scarpa giusta, poi la portano slacciata, gravissimi errori di postura e problematica a livello del piede e di riflesso a livello della schiena. Dottoressa Tavernaro, a proposito di libri sulla scrivania, c'è un modo, nell'attesa di avere poi delle indicazioni precise dagli studi in materia, in cui che noi possiamo consigliare ai ragazzi che studiano, alle persone che leggono alla scrivania? Sì, è una cosa importante sollevare il piano di lavoro anche in maniera così domestica, mettendo sotto al libro un altro libro, quasi volessimo simulare l'utilizzo di un leggio che tra le altre cose potrebbe essere anche facilmente acquistabile. Ci sono delle teche, per esempio, che diventano un leggio che potrebbero essere trasportate anche a scuola e a casa con facilità. Inclinare il piano di lavoro su cui io sto leggendo impone comunque una posizione più corretta sia per la colonna vertebrale che per gli occhi, quindi sicuramente va consigliato. Concordo su quello che ha detto prima il dottor Confalonieri, su quanto ha detto alla ragazza di prima, probabilmente si cercava proprio la stimolazione dell'estensione in maniera automatica, di andare a sentire le informazioni sul traffico, sì. Chi ha i piedi piatti è destinato a soffrire di mal di schiena? No, non credo, ma preferisco che a questa domanda professor Negrini. Negrini, lei che dice? non ci sono dimostrazioni scientifiche che correlano le due cose, neanche con i denti. Neanche con i denti, neanche con i piedi piatti e neanche con gli zaini. Poi magari un giorno scopriremo che ci sono. Però al momento... cose, ma finché non abbiamo un dato scientifico non si può andare nelle mani dei praticoni che ti fanno buttare via un fracco di soldi per delle loro teorie. E se fosse il materasso? Chiaro e forte. Bene. E se fosse il materasso a farci venire il mal di schiena? Molti di voi danno la colpa al materasso, mi state scrivendo al 349-238-6666, forse qualcuno anche in voce. E poi, senza parlare del cuscino, e poi la bicicletta, esiste uno sport ideale per la schiena? O qual è quello che pesa di più? E in sostituzione 800-240024. Aspetto chi ama stendersi sul materasso, quindi sedentari, un po' in panciolle, chi invece vuole tenere la schiena allenata e quindi non sta mai fermo e si butta dalla bicicletta alla corsa, al nuoto, sedentari sportivi, a me. Essere e benessere. La sedia è l'ideale per chi è tanto stanco e vuole riposare. È giusta la poltrona per chi vuole far salotto e chiacchierare. È comoda la maca per restare l'aria aperta e dondolare. Fantastico il divano. Dottoressa Tavernaro, allora ciascuno dorma sul materasso che vuole, ma... ci sono dei materassi che possiamo considerare più amici della nostra schiena? Sì, il materasso è una scelta molto individuale perché ognuno di noi ha una risposta a dei materiali diversi diversa, di conseguenza dipende anche un po' dai nostri tessuti e da quanto rispondiamo a questi materiali. Sicuramente un materasso non deve accogliere il corpo e non respingerlo e tantomeno affossarsi sul nostro peso, per cui laddove noi ci svegliassimo effettivamente sempre molto intorpiditi, sempre molto così doloranti, una volta escluso che dipenda da delle cause specifiche, appurato questo, potrebbe effettivamente essere il momento di cambiare il nostro materasso perché è troppo vecchio, perché non è più adeguato al nostro fisico. Rossella mi scrive: mio figlio dopo 10 anni di materasso duro mi chiede un materasso morbido, lo accontento? Allora, se per duro intende quello su cui io dormivo, cioè sull'asse di legno con un materasso che era all'epoca di lana, sì, io direi che possiamo tranquillamente cambiare materasso al ragazzo, soprattutto se lo chiede lui, perché vuol dire che ha una risposta, lo sente sgradevole la sensazione. È difficile comprare un materasso perché spessissimo non si può provare, questo è il grosso limite, bisognerebbe poterlo portare a casa 10 giorni, provarlo e poi verificare, però ci sono delle strategie, per esempio, diciamole rapidamente. Per esempio cambiare il materasso, andare a dormire su quello degli familiari e vedere se cambiando prima in più morbido, in più duro, stiamo meglio o peggio, in modo da indirizzare la nostra attenzione su una tipologia di risposta. Lei ha sottolineato cambiamo materasso, proviamo con quello dei familiari. Sì. E sottolineo familiari. Andiamo al secondo consiglio. Alle volte succede che in vacanza stiamo meglio o peggio, analizziamo dove stiamo meglio e dove stiamo peggio, indirizziamo la nostra attenzione a quello. Sì. La sensazione che dobbiamo avere nel momento in cui ci sdraiamo poi sul materasso è quella appunto di essere accolti, il corpo si deve adagiare, non deve rimanere in sospensione, non devo avere una sensazione di essere pericolante. Sì. Nello stesso tempo però non devo essere completamente affossato all'interno di esso, perché vuol dire che altrimenti il tessuto è troppo morbido. Devo essere accolto sia in posizione supina, alle volte si prova solo in posizione supina perché in negozio faccio quello, mi sdraio, ma sì, mi sembra di. In realtà possiamo provare per esempio sul fianco, che è la posizione che poi adottiamo più facilmente per addormentarci e per dormire. È vero. Per cui ci mettiamo sul fianco e sentiamo se la colonna rimane allineata, perché poi è quello che il trucco è quello lì, cioè se il sedere va troppo giù non va bene. Non va bene. Ecco, va deve bene. Essere allineata. Deve essere allineato, deve sprofondare quel che basta per mettere in linea poi le vertebre lombari rispetto a quelle dorsali. E comunque una cosa che vogliamo sottolineare: il materasso, quello con la l'asse sotto duro, perché così si pensava facesse bene alla schiena, non va più bene, è da buttare. Andiamo ad Angela dalla provincia di Trento. Buongiorno Angela, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci, rapidamente. Eccoci. Io volevo parlare della bicicletta. Sì. Perché sono, ho una serie di acciacchi, sono in sovrappeso, ho una scoliosi molto brutta, sono stata operata di ernia del disco. Sì, insomma, una schiena direi delicata, la bicicletta. Sì, molto delicata, lei di ginocchia. Sì, ha voluto la bicicletta, quindi adesso pedala. Ho voluto la bicicletta. Fa bene a pedalare, dottor Confalonieri? Beh sì, fa bene, perché qui c'è un sovrappeso anche, problemi di ginocchia, quindi anche camminare, che dovrebbe essere l'attività più indicata, potrebbe creare dei problemi alla signora. L'ideale sarebbe, come si è detto tante volte, il nuoto, perché c'è uno scarico totale della schiena, però non tutti sanno nuotare così bene da non sovraccaricare la schiena. E non tutti gli stili, vero? No, poi va evitata la rana, poi soprattutto bisogna nuotare bene, sennò si rischia di avere dei sovraccarichi acuti che peggiorano ulteriormente la situazione. Quindi ok la bicicletta, ovviamente è imprescindibile il fatto di andare da una professionista capace di metterci in bicicletta nella posizione giusta, perché in questo caso noi non sovraccarichiamo la schiena in modo scorretto, ma anzi proprio il mantenimento della postura in bicicletta consente di potenziare tutta la muscolatura posturale paravertebrale e quindi di ridurre i problemi legati sia alla scoliosi che a queste ernie di cui parlava la nostra ascoltatrice. Altre indicazioni, dottor Confalonieri? Rispetto agli sport, direi che in linea di massima le abbiamo date. Cercherei sempre, come dicevo prima, di abbinare il lavoro aerobico, quello che ci serve a perdere peso, che sia nuoto, che sia corsa, che sia bici, con una ginnastica che sia di tipo posturale per la schiena e che sia di potenziamento per addominali e glutei, che sono fondamentali per prevenire il mal di schiena. E quando abbiamo mal di schiena, smettiamo di allenarci. Sì, o cambiamo sport o cerchiamo seguiamo di capire perché ci è venuto. Seguiamo i consigli della dottoressa Tavernaro. Esatto. Allora, per oggi è tutto. Io ringrazio il professor Negrini. Grazie, professore. E saluti agli ascoltatori. Marta Tavernaro per i preziosi consigli, indicazioni precise. Ecco come si fa, come piace a noi a essere benessere. Grazie, è stata molto piacevole. Buona Grazie giornata. A voi, saluti a tutti. Dottor Confalonieri, che è tornato a trovarci, tornerà spesso a a farlo e a scrivere su Facebook. Gianmarco Ferronato in regia, la parte tecnica, e Laura Vanossi come sempre in redazione. Io vi do appuntamento a domani, intanto vi invito a parlare con noi sulla nostra pagina Facebook e a seguirci. Io torno, vi aspetto. Essere e benessere.